lui è morto anche per te. Perciò non puoi essere felice, eppure dovresti lasciarti andare un po' a questa perversione cattolica. Oggi come ieri si può andarsene a spasso sulla via maestra, cattiva quanto vuoi, quanto una perversione cattolica. Anche per te, l'han detto le lingue in cima alle antenne, che porta tumori, però è un'altra perversione cattolica. Piango sangue dentro i bistrò, anche giù in metro, attraverso l'inferno, nel bianco eterno del neo, è la mia perversione cattolica. Ma lo sai, scolato da un buco, aperto in un braccio, ho mitragliato all'alba chissà per quale perversione cattolica. E io perciò per Dio me ne sto, col dilemma eccitante di essere infedele, anche se non lo sarò mai a questa perversione cattolica.